del Mar Tirreno alla sinistra riva, dove rotte dal vento piangon l'onde, subito vidi quell'altera fronde, di cui conven che in tante carte scriva, amor che dentro all'anima bolliva, per rimembranza delle trecce bionde, mi spinse un denurio che l'erba sconde, caddi non già come persona viva, solo vi era tra boschetti e colli, vergogna bi di me, calcor gentile, basta ben tanto e t'altro spron non volli, piacemi almen d'aver cangiato stile, dagli occhi a pie se delore esser molli, gli altri asciugasse un più cortese aprile, un più cortese aprile. Era tra boschetti e colli, vergogna bi di me, calcor gentile, basta ben tanto e t'altro spron non volli, piacemi almen d'aver cangiato stile, dagli occhi a pie se delore esser molli, gli altri asciugasse un più cortese aprile, un più cortese aprile, un più cortese aprile.